Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Come ogni venerdì, rieccoci con Lucciole nelle tenebre. Io sono Flavia. Io Francesca. Ciao a tutti. Oggi abbiamo un argomento abbastanza alternativo, direi, per tra le mani. Internazionale. Che ci è capitato fra le mani in maniera del tutto casuale, e abbiamo deciso, io e Francesca, di parlarne, sì, insieme a voi anche oggi. Anche perché siamo stati affascinati e abbastanza anche sconvolte dal racconto ne ha fatto Flavia Famà. Ce ne ha fatto Flavia Famà domenica scorsa, sì, durante un incontro che nella rete dei presidi di Libera giovanile si è ritagliata. E abbiamo appunto deciso di incontrare, abbiamo invitato Flavia Famà che ci ha raggiunti e ci ha raccontato di un progetto di Libera internazionale al quale sta lavorando, che l'anno scorso l'ha portata a Città del Messico e in generale in Messico, sì. Penso abbiano fatto un bel giro, e appunto è un viaggio che ogni anno Libera internazionale organizza. Quest'anno sarà in Colombia, sarà a maggio. Sul sito trovate tutte le informazioni per partecipare, e che insomma appunto l'anno scorso si è tenuto in Messico. Il racconto di Flavia ci ha traumatizzato, nel senso che a metà del racconto entrambe, mi sembra capire, anche parlando tra di noi, siamo state abbastanza maluccio, perché la situazione che ci ha prospettato in Messico è davvero delle più tremende, ma una cosa che io non riesco nemmeno a immaginare. Sono quelle cose da film, anzi da telefilm, direi, a sì. Volte, e tutti i cartelli messicani, narcotraffico, sparizioni, prostituzione. Lontanamente uno si può immaginare, non immaginavamo a questi livelli, in quei posti. E quindi soprattutto nel silenzio assoluto della stampa internazionale, sicuramente italiana. Soprattutto anche alla luce dei nuovi sviluppi e nuovi accordi che si sono fatti con il Messico. Il Messico pare che sia una delle più grandi potenze, diciamo, di sul nascere economico a livello mondiale, quindi il nostro paese con il nostro ex premier ha deciso di investire, stipulando un accordo in seguito alla liberalizzazione del petrolio. Eleni ha firmato un accordo con il Messico, quindi parliamo del Messico, ma soltanto di alcune cose, cioè dell'economia, degli affari, però non sappiamo minimamente cosa stia succedendo in quel paese. La situazione è drammatica. Cioè, Flavia diceva che sparisce una persona ogni 20 minuti. Parlava di ma immagini che veramente fanno accapponare la pelle, di questi autobus divisi a metà rosa, a metà neri, e le donne possono salire solo nella parte davanti perché altrimenti vengono stuprate in autobus. Volendo comunque dare una sorta di ordine al nostro discorso, direi che è necessario capire un po' di cosa stiamo parlando, e appunto chiederei a Francesca di spiegarci come funzionano, chi sono questi narcotrafficanti, cosa sono i cartelli. Allora, i cartelli messicani sono la criminalità organizzata del Messico, è paragonabile assolutamente alla nostra mafia, e sono i principali, sono cinque. I due forse maggiori sono Los Zetas, che è il cartello più violento e comunque che appunto semina anche maggiore terrore, in questo momento sembra anche il più potente di tutti, che ha fatto anche varie azioni, quali per esempio questo cartello metteva gli omicidi che faceva venivano poi pubblicati su YouTube, ha ucciso tantissimi giornalisti e non solo, anche utenti di internet, per impedire che la situazione messicana venisse raccontata, tanto che l'ordine dei giornalisti ha decretato che il Messico è il paese più pericoloso per i giornalisti. E poi l'altro grande cartello è Sinaloa, il cartello di Sinaloa, che prende il nome da uno stato del Messico e di cui faceva parte El Chapo. El Chapo era, diciamo, il capo supremo del cartello Sinaloa e veniva tratteggiata come una figura a tratti appunto mitologica, che tuttavia è stata presa nella fine di questo febbraio di quest'anno ed è stata catturata appunto a Sinaloa. E quindi a casa sua, nella sierra, diciamo, nella, non arroccato nel deserto, non arroccato appunto, ma in una meta turistica, in una meta turistica in cui lui comodamente viveva e tranquillamente. Dopo 13 anni di latitanza, uno dei più grandi ricercati del mondo se ne stava tranquillamente in villeggiatura. Questo ci fa capire come questi soggetti godano di un trattamento, diciamo, privilegiato da parte dello Stato, uno Stato che si sta praticamente disinteressando di questa situazione, quando in realtà i cartelli costituiscono quasi un'organizzazione sovranazionale che si sostituisce praticamente allo Stato e si organizza per i fatti suoi, creando un'economia parallela, sì, e addirittura rete di telecomunicazioni, diceva Flavia che lo Zetas. Ha creato questa rete di telecomunicazioni totalmente autonomo rispetto allo Stato. E sì, la politica non fa altro che, cioè, l'unica risposta che di fatto è stata data è una risposta militarizzata, che però di fatto si è rivelata inefficace totalmente, e è l'unica risposta che hanno saputo dare sia l'ex presidente messicano Felipe Calderón, che era del partito conservatore PAN, sia il nuovo capo di Stato dal 2012, che si chiama Peña Nieto, scusate la pronuncia, invece di un altro partito, sempre uno dei maggiori partiti messicani, tra il PRI, PRI, che è il Partito Rivoluzionario Istituzionale, un ossimoro tutto loro. Esatto, cambiano comunque i governi, ma non cambia la situazione. Fra l'altro, la connivenza con lo Stato è appunto acclarata, e anche la polizia è totalmente collusa con questi cartelli, tanto che Flavia raccontava di un'esperienza in cui, per esempio, passava in una strada piena di prostitute e i poliziotti c'erano, prostitute minorenni. I poliziotti c'erano, ma invece di appunto occuparsi della situazione, stavano chiedendo il pizzo a un tassista. Quindi una situazione veramente al limite del paranormale. Esatto. Adesso ci sospendiamo per un attimo. Io adesso parlerei di un messicano, o meglio, un americano di origini messicane, invece buono, sano, che io personalmente amo, e che è stato a Bologna nelle scorse settimane con un concerto e con la presentazione del documentario sulla sua vita. E vi lascio quindi a Sisto Rodriguez con 8th Street Dialogue. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. Kiss the floor, one kick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted Hate Street's hanging trees. I tasted Hate Street's hanging trees. I tasted Hate Street's hanging trees. I tasted Hate Street's hanging trees. I tasted Hate Street's hanging trees. Quiet nights of quiet stars. 26.121 persone scomparse, questo è il numero che riporta Amnesty International in una delle sue relazioni. Sono appunto le persone che sono scomparse dal 2006 al 2012, esattamente il periodo della presidenza di Felipe Calderón. Sono appunto i desaparecidos messicani, di cui quasi nessuno, almeno quelli che conosco io, hanno mai sentito parlare. Si tratta di persone che cioè, semplicemente non esistono più. Da un momento all'altro escono per andare a fare la spesa, vanno a una manifestazione, sono semplicemente sul posto di lavoro, dopo due minuti non esistono più. Come ci diceva prima Francesca, le sparizioni vengono calcolate con una media di un rapimento ogni 20 minuti. Queste persone vengono rapite per motivi più vari, ma a volte anche senza un motivo. La maggior parte delle volte si tratta di rapimenti a scopo estorsivo e le vittime cioè per le vittime, per avere indietro le persone diciamo scomparse, cioè la criminalità organizzata chiede dai 1.500 ai 5.000 dollari, assicurandosi così un giro d'affari enorme con il traffico di vite umane. Senza contare che anche molto spesso invece non chiedono niente, semplicemente utilizzano queste persone come forza lavoro. Specialmente dicono che in Messico vadano forte gli ingegneri. Gli ingegneri spariscono nel nulla. Quindi se siete ingegneri pensate a farvi una vacanza in Messico. E quindi sì, sparizioni a scopo estorsivo, ma non solo. Molte sparizioni sono anche a sfondo politico. Sono spariti nell'ultimo periodo 13, ci sono state 13 sparizioni forzate ai danni di membri delle organizzazioni e dei movimenti, come quella di Torres, che era un attivista fra i più conosciuti dei movimenti antagonisti di Città del Messico, che è semplicemente scomparso nel nulla. Di lui non si sa più niente. Quindi la cosa più traumatizzante è che le istituzioni non sanno dare nemmeno la forza ai familiari delle vittime di cercare, e anche la tranquillità di poter chiedere che fine hanno fatto i loro familiari e i loro cari. Se un familiare va alla polizia a chiedere della persona scomparsa, quello che si sente dire è: stai zitto, altrimenti probabilmente sparirai pure tu nel giro di pochi giorni. Quindi è un clima di minaccia e di terrore, e infatti molte sparizioni avvengono anche totalmente a caso, senza nessuna logica, semplicemente per seminare terrore. E appunto quelle volte spesso non si chiede un riscatto indietro, non si sa semplicemente più nulla della persona. E quindi Amnesty ha accusato le autorità federali, statali, messicani di non aver voluto semplicemente affrontare l'argomento. Non si parla di queste sparizioni, non si sa niente, e le famiglie brancolano nel buio. Ed è stato molto bello il 22 marzo a Latina sentire tra i nomi delle vittime. Non è stato bello sentire i nomi delle vittime, no, è stato bello che appunto alcuni familiari delle vittime siano stati presenti sul palco. Le vittime messicane? Sì, le famiglie appunto messicane, che hanno letto i nomi di questi desaparecidos. E quindi è bello sapere che comunque c'è una rete dietro che cerca di sopperire alle mancanze di uno Stato che è semplicemente assente su questo problema. Infatti via via si sta cercando, Elibre è infatti presente in Messico proprio per questo. Cioè è presente in Messica, si è messa in contatto con alcune associazioni messicane con la modalità di rete che è proprio di Libera, per appunto cercare di creare una situazione di maggiore tranquillità e sicurezza per i familiari delle vittime, e una rete anche fra familiari che possa dare una maggior forza a queste persone che effettivamente vivono ormai nell'incertezza totale, perché se non puoi nemmeno fidarti dello Stato non sai più dove sbattere la testa. Diciamo che è un sentimento abbastanza comune di questi tempi. Sì, è comune, però cioè a questo punto la situazione italiana sembra quasi paradisiaca. Esatto, infatti Libera ha aderito ad ALAS, che è un acronimo che sta per America Latina Alternativa Social, che è una rete internazionale attraverso cui si muovono appunto le organizzazioni che delle organizzazioni dei familiari, spesso delle vittime, organizzazioni anche internazionali che si occupano della denuncia e soprattutto della vicinanza alle famiglie delle vittime, ma portano anche delle proposte legislative concrete, per esempio Libera e la legislazione antimafia italiana, che è un ottimo esempio, e paradossalmente siamo bravi in qualcosa. Poi non siamo bravi ad applicare. Quindi, sì. E hanno esportato il modello, si sta cercando di esportare il modello italiano, proponendo per esempio anche delle leggi per il riutilizzo dei beni confiscati. E ad ALAS hanno aderito 21 organizzazioni e reti di organizzazioni che operano nei paesi dell'America Latina, come appunto Messico, Honduras, Colombia, Ecuador, Brasile, Argentina e Guatemala. E fra l'altro è una rete che fa forza, che unisce, una rete di salvataggio, direi. E fra l'altro tutti questi paesi sono anche uniti da un fortissimo tasso di emigrazione verso gli Stati Uniti, per emigrare negli Stati Uniti il cammino forzato è appunto per il Messico, e rischiosissimo in Messico è la tratta appunto dei migranti che cercano di arrivare al sogno americano degli Stati Uniti, quindi approdare in Texas o Arizona o California, che sono gli stati confinanti. Anche lì c'è qualcuno che invece ci guadagna. Allora, intanto probabilmente molti di voi sapranno che tra il Messico e gli USA c'è un muro lunghissimo, 3200 chilometri, sì, che io non riesco nemmeno a organizzarli e organizzarli nella mia testa, e che è stato costruito nel 1994, si chiama il Muro della Vergogna, e in realtà risulta efficace appunto per le persone, nel senso che vengono fermate le persone in frontiera, fermate nel senso che gli sparano anche addosso, e non è un eufemismo, gli sparano proprio addosso, cioè ci sono dei morti in frontiera, e però estremamente così poroso per droga, armi, prostituzione, commercio di schiavi, e che arrivano tutti belli belli negli Stati Uniti. Inoltre il traffico è anch'esso nelle mani dei cartelli messicani, Los Zetas ha addirittura un treno che viene chiamato La Bestia, o il treno mangia uomini, all'interno del quale appunto vengono messi gli immigrati, e che finendo in questo treno non fanno altro che finire appunto nella tratta diretta dei corpi. Una via di mezzo fra i treni merce per Auschwitz e i nostri barconi. Questo quindi è il quadro della situazione, che risulta estremamente drammatico, e Libera si è avvicinata quindi a questa realtà, in particolare con una campagna di approfondimento che è Messico per la Paz, in cui si appunto si richiede soprattutto una maggiore informazione al di fuori del Messico, portare le conoscenze di questa situazione anche al di fuori del Messico. Quello che possiamo fare per ora è poco, però già parlarne, secondo me, spargere la voce e cominciare a far conoscere questa situazione è già qualcosa di veramente grande. Quindi l'invito che vi facciamo è: andate sul sito Mexico por Pax, quindi il Messico per la pace, ma è una pace che proviene anche dallo stesso Messico, infatti è pace per il Messico e Messico per la pace, quindi leggete il sito, informatevi e parlatene. Teniamo però adesso un po' i toni direttamente dal film di Tarantino, con i Coasters, con Down in Mexico. Agli inizi del Novecento, durante anche la rivoluzione messicana, in Messico abbiamo un fermento culturale fortissimo, che il Messico vede ospita e dà natali a artisti straordinari per il Novecento, quali per esempio Frida Kahlo e suo marito Diego Rivera, famosissimo per i murales, e con una fama sia appunto nazionale che internazionale. Altri straordinari artisti sono per esempio Tina Mondotti, un'attrice fotografa italiana che però rimane affascinata e innamorata dal Messico, che diventa di fatto la sua patria adottiva. E un altro grande artista, sempre di murales, José Clemente Orzoco, che è sempre, come anche Diego Rivera, oltre che artista anche un attivista politico, come tutte queste persone, questi artisti che ho nominato prima. E infine anche Chevela Vegas, che è una cantante. Tutte queste figure veramente magiche si relazionano tra di loro e creano una sorta di società degli intellettuali messicani, che hanno trova quasi il suo simbolo attorno alla casa di Frida Kahlo, la famosa casa azzurra, casa di nascita di Frida, ma che troverà poi dove troveranno ospitalità tutti questi artisti, e non solo artisti ma anche uomini politici, quali per esempio Trotsky, esiliato dalla Russia, scappando da Stalin. Trotsky, che tra l'altro morirà nello stesso Messico. Questa parentesi la volevamo fare appunto per cercare di dare... Dimmi. No, cioè, questa è una parentesi buona di un Messico diverso da quello che abbiamo raccontato nella prima parte della puntata, e ci tenevamo a fare questo contrasto, creare questo contrasto fra i colori di Frida, tra l'azzurro della casa azzurra e... ma anche tutte le storie mitologiche di cultura popolare, la musica del Messico, che adesso vi faremo sentire appunto una canzone di Chevela Vergas. che oltre ad essere appunto una cantante è stata anche una delle amanti di Frida Kahlo, e respirare minimamente quell'aria veramente di da sogno, sì, perché è sognante effettivamente come atmosfera quella di quegli anni. Sognante e estremamente anche concreta, perché comunque sono artisti che hanno avuto tutti un impegno estremamente politico, per cui usavano l'arte e attraverso i loro sogni esprimevano però poi degli ideali, quasi dei manifesti. Diego Rivera è stato dovuto andare via dagli USA, dove era stato chiamato per fare delle opere, un'opera al Rockefeller Center, in cui doveva fare una sorta di murales sul rappresentante del capitalismo, in cui lui introduce un ritratto di Lenin. Naturalmente Rockefeller fa rimbiancare la parete e un po' di anni dopo vuole anche distruggerla. Artisti estremamente contrastati, perché poi appunto vivevano in una libertà e sessualità ampissima, ma che ci lasciano delle immagini bellissime come questa canzone che state sentendo. Prima di salutarci però vogliamo farvi un invito particolare e molto importante. E oggi pomeriggio presso la Scuderia in Piazza Verdi ci troverete insieme ai ragazzi della Casa dello Studente e all'avvocato di parte civile Vania Della Vigna e Caporale, che è un giornalista appunto che ha scritto dell'Aquila, per iniziare insieme il Liberaduno, che è arrivato alla sua seconda edizione e che quest'anno appunto si terrà in pieno centro universitario. Fra oggi e domani. Stasera tantissimi concerti, tantissimi ospiti importantissimi, e domani con Pino Maniaci e i ragazzi di Musica Contro le Mafie. E vi aspettiamo calorosamente in Piazza Verdi. E numerosi soprattutto, e soprattutto non perdetevi la parte musicale, che ci è costata molto fatica, vi assicuro che ne varrà la pena. Quindi a stasera, a domani e a venerdì prossimo. Ciao a tutti. Questa è Paloma Negra. Già me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera.